mio dolce amore, non mi trascinare per le vie del centro, non ti posso baciare. Mio dolce amore, cosa importa a me di Courage e di Chanel? Io ti voglio baciare. Non guardare le vetrine, quelle cose colorate, vieni sola lungo il viale, alberato e buio. Mio dolce amore, non mi trascinare per le vie del centro, non ti posso baciare. Mio dolce amore, cosa importa a me di Courage e di Chanel? Io ti voglio baciare. Voglio baciare.